I'd have known this was going to be the last time me and Bubba was going to talk, I'd have thought of something better to say. Hey, Bubba. Hey, Forrest. Why did this happen? You got shot. Then Bubba said something I won't ever forget. I want to go home. Bubba was my best good friend. And even I know that ain't something you can find just around the corner. Bubba was gonna be a shrimping boat captain, but instead he died right there by that river in Vietnam. That's all I have to say about that. Where do these tears come from? They belong to the ice of Eclettica si è aperta con Emily Haynes. Emily Haynes, che è la front woman dei Metric, ma soprattutto la cantante, per così dire, part time dei Broken Social Scene, la quale ha deciso di iniziare una carriera solista a nome Emily Haynes and the Soft Skeleton, una prima prova uscita in questi giorni per Grönland, da cui abbiamo estratto Dr. Blind. Poi, assenti da qualche settimana dall'interno delle playlist di Eclettica, sono ritornati May I Refuse, appena ascoltati, ed invece è un'altra novità quella che vi aspetta nei prossimi minuti da Bristol, un duo di nome Dragons con il pezzo dal titolo Condition. Si alzò dalla sedia dirigendosi in sala da pranzo. Estrasse dalla credenza le salsiere e i piatti da portata tanto familiari, finché non scovò il vassoio annerito. Erano le porcellane, l'argenteria dei genitori, passate a loro alla morte del padre, insieme al tavolino, alle sedie del soggiorno e ai quadri appesi alle pareti. «Mi ci vuole un'ora per pulire quest'affare», urlò in direzione della cucina. «Il lucido nell'armadietto. Nello stipo abbiamo 5 guantiere in perfetto stato». Dietro le bottiglie, sulla sinistra. Owen digrignò i denti. Quanto sapeva essere autoritaria certe volte. «È una vera esagerazione», bofonchiò riprendendo posto al tavolo della cucina. Intinse uno straccio nel lucido e lo passò sul metallo liscio. Non erano abituati ad avere ospiti a cena. La zia Filippa, dello Shropshire, la sorella della madre, di solito andava a Natale e si tratteneva 3 o 4 giorni. La domenica, ogni tanto, Hillary invitava Miriam Franks, un'insegnante sua collega al liceo, Dopo prendevano il caffè in salotto e parlavano degli studenti. Di quando in quando andavano a cena fuori in occasione dell'apertura di un nuovo ristorante sul corso principale, ma non erano mai stati dei veri gourmet. Buona parte dei soci di Owen a una certa età avevano dichiarato di aver scoperto il vino e ora trascorrevano le vacanze in Italia. Lui e Hillary affittavano un cottage nel Lake District le ultime due settimane di agosto. Ci andavano da anni e si trovavano benissimo. Una bella casetta di pietra che prendeva tutta la luce del pomeriggio e affacciava sul lago Windermere. Questo era ancora l'incipit del Principio del dolore di Adam Hazlett. a bullet, wasn't it? A bullet? That jumped up and bit you. Oh, yes, sir. Bit me directly in the buttocks. They said it was a $1 million wound, but the Army must keep that money because I still ain't seen a nickel of that $1 million. Things in me.